Capitolo 13. Secondo gli ordini del medico, a quel che seppi, il signor Rochester si coricò presto quella sera e il mattino dopo si alzò tardi. Scese soltanto per occuparsi dei suoi affari, poiché il suo agente e alcuni fittavoli erano arrivati e aspettavano di parlargli. Adele e io dovemmo abbandonare la biblioteca che sarebbe servita al padrone per ricevervi i visitatori. Fu acceso il fuoco in una stanza al piano superiore e là portai i nostri libri e tutto l'occorrente per le lezioni. Durante la mattina ebbi modo d'accorgermi che Thornfield era cambiata. La villa non era più silenziosa come una chiesa. Ogni ora o due si sentiva bussare alla porta o suonare un campanello, molti passi attraversavano l'ingresso e voci nuove risuonavano a terreno. Un eco dell'animazione del mondo esterno arrivava fino a noi, ora che la casa aveva un padrone e per mia parte la preferivo così. Quel giorno non fu facile dar lezione ad Adele, era distratta, correva continuamente fuori per vedere, sporgendosi dalla balaustra delle scale, se per caso non passasse il signor Rochester, e escogitava sempre nuovi pretesti per scendere al pian terreno, con lo scopo, come giustamente sospettai, di entrare in biblioteca, dove sapevo che non era desiderata. Quando infine mi stizzì e la costrinse a rimanere seduta, prese a parlarmi del suo amico «Monsieur Edouard Fairfax de Rochester», come lo chiamava. Ed io conobbi così per la prima volta tutti i suoi nomi. E a fare congetture sui regali che certo le aveva portato, poiché sembrava che la sera prima, quando da Millcote era giunto il suo bagaglio, egli avesse accennato a un pacco il cui contenuto interessava Adele. «E se la doit signifier», disse la mia alunna, «qui li aura là dedans un cadeau pour moi, et peut-être pour vous aussi, mademoiselle. Monsieur a parlé de vous, il m'a demandé le nom de ma gouvernante, et si elle n'était pas une petite personne, assez mince et un peu pâle. Je dis que oui, n'est-ce pas, mademoiselle?» Io e Adele pranzammo come al solito nel salottino della signora Fairfax e nel pomeriggio, poiché il tempo era brutto e prometteva neve, ritornammo nel nostro nuovo studio. Verso sera permisi ad Adele di riporre i libri e il lavoro e di scendere, perché dal relativo silenzio che regnava al pian terreno arguì che il signor Rochester fosse libero. Rimasta sola, mi accostai alla finestra e guardai fuori, ma non si vedeva nulla. L'oscurità che infittiva e qualche fiocco di neve non permettevano di scorgere nemmeno i cespugli del prato davanti alla casa. Così abbassai le tende e ritornai accanto al fuoco, mettendomi a tracciare con le molle, nella cenere calda, le linee di un quadro che avevo visto riprodotto in un libro anni prima e che rappresentava il castello di Adelberga sul Reno. La signora Fairfax, entrando, scompigliò e distrusse il difficile disegno che avevo messo insieme, ma al tempo stesso mi tolse agli opprimenti pensieri che in quella solitudine già stavano per impadronirsi del mio spirito. «Il signor Rochester sarebbe felice», mi annunciò ella, «se lei e la sua allieva volessero prendere il tè in salotto con lui questa sera. Ha avuto tanto da fare tutto il giorno che non gli è stato possibile chiedere prima di vederla, signorina Eyre». «A che ora si prenderà il tè?» domandai. «Alle 6. In campagna anticipa sempre l'ora dei pasti. Sarà bene che intanto lei si cambi d'abito. L'aiuterò io. Ecco, qua, il lume». «È proprio necessario che mi cambi?» «Sì, è meglio. Anch'io mi vesto sempre per la sera quando c'è il signor Rochester». Questa formalità mi parve troppo cerimoniosa. Tuttavia, raggiunsi la mia camera e, aiutata dalla signora Fairfax, cambiai il mio vestito di lana nera con uno di seta dello stesso colore, il migliore del mio scarso guardaroba, insieme ad un altro grigio chiaro che, secondo le nozioni di eleganza di Lowood, era adatto soltanto alle grandi occasioni. «Una spilla ci starebbe bene», osservò la signora Fairfax. «Non avevo che una piccola perla lasciatami per ricordo dalla signorina Temple. Me la puntai davanti e scendemmo. Poco avvezza com'ero a vedere estranei, il presentarmi al signor Rochester dopo un invito tanto formale costituiva una prova per me. Lasciai che la signora Fairfax mi precedesse in sala da pranzo e continuai a restare nella sua ombra, anche quando, scostando i tendaggi della porta ad arco, entrammo nell'elegante salotto disabitato fino al giorno prima. Due candele ardevano sulla tavola e due sul caminetto. Accovacciato per terra, Pilota si scaldava al fuoco che divampava con allegro crepitio e Adele era inginocchiata accanto a lui. Semi sdraiato su un divano, col piede appoggiato ad un cuscino, il signor Rochester osservava Adele e il cane. La luce della fiamma lo investiva in viso, cosicché riconobbi all'istante in lui il viaggiatore dalle folte e corvine sopracciglia e dalla fronte quadrata, che il taglio orizzontale dei capelli neri rendeva ancora più spaziosa. Ne riconobbi il naso imperioso, più caratteristico che bello, le mobili narici che mi pareva denotassero una natura violenta, la bocca, il mento, la mascella, volitivi e duri. Sì, duri mi sembrava la parola giusta, ora che non era più avvolto nella pelliccia, notai che la figura era in armonia con i tratti del viso. Una figura forse bella nel senso atletico della parola, con quell'ampio petto e i fianchi stretti, ma priva di grazia e di imponenza. Il signor Rochester doveva essersi accorto che la signora Fairfax ed io eravamo entrate, ma evidentemente non era disposto a occuparsi di noi, poiché non alzò neppure il capo. «Ecco la signorina Eyre», disse la signora Fairfax placidamente, come al solito. Egli fece un cenno col capo, senza distogliere gli occhi dal gruppo formato dal cane e dalla bambina. «Che la signorina Eyre si sieda», disse, e vi era qualche cosa in quel saluto forzato, in quel tono impaziente, benché cerimonioso, che sembrava significare «Che me ne importa se la signorina Eyre è qui? In questo momento non ho voglia di parlarle». Mi sedetti, per nulla imbarazzata. Un'accoglienza compita e gentile mi avrebbe forse confusa, perché non avrei saputo rispondervi con grazia, ma un contegno così scortese e capriccioso non mi imponeva alcun obbligo, anzi, il riguardoso silenzio che le buone maniere mi obbligavano ad osservare mi metteva in una posizione vantaggiosa. Inoltre, l'eccentricità di quei modi stimolava la mia curiosità ed ero ansiosa di vedere come sarebbe stato il resto della serata. Il signor Rochester continuava a stare fermo come una statua. A un certo punto la signora Fairfax, giudicando che almeno qualcuno dovesse mostrarsi amabile, cominciò a parlare, dolcemente, come al solito, ma come al solito non dicendo che banalità. Compianse il padrone per il gran lavoro che aveva avuto tutto il giorno, per il dolore che doveva provare al piede offeso, poi lo elogiò per la pazienza di cui dava prova. «Signora, vorrei il tè», fu la sola risposta che si ebbe. Allora ella si affrettò a suonare e, quando il vassoio fu portato, si diede con sollecitudine a preparare le tazze e i cucchiaini. Adele e io ci accostammo al tavolo, ma il padrone non lasciò il suo divano. «Vuol porgere la tazza al signor Rochester?» mi disse la signora Fairfax. «Adele spanderebbe il tè». Feci quel che mi chiedeva e, mentre il signor Rochester prendeva la tazza dalle mie mani, Adele, ritenendo il momento propizio per fargli una domanda a mio favore, disse: «N'est-ce pas, monsieur, qu'il y a un cadeau pour mademoiselle Eyre dans votre petit coffre?» «Chi parla di regali?» domandò egli in tono burbero. «Si aspettava un regalo, signorina Eyre? Le piacciono i regali?» E così dicendo, mi scrutò in viso con occhi che mi parvero cupi, irati e penetranti. «Non lo so, signore, ne ho poca esperienza, ma in genere un regalo fa piacere». «In genere? Ma lei che cosa ne pensa?» «Dovrei prendere tempo, signore, per dare una risposta. Un regalo può avere molti aspetti, non è vero? E bisogna considerarli tutti prima di esprimere un parere sulla sua natura». «Signorina Eyre, lei non è ingenua come Adele, che mi chiede a gran voce un regalo non appena mi vede. Lei prende le cose alla lontana». «Perché ho meno fiducia di Adele nei miei meriti? Ella può invocare il privilegio di un'antica conoscenza ed anche quello di una consuetudine, poiché afferma che lei, signore, le ha sempre donato dei giocattoli. Ma se questi precedenti dovessero avere valore anche per me, ne sarei stupita, perché io sono un'estranea e non ho fatto nulla che meriti gratitudine». «Oh, non faccia la modesta. Ho esaminato Adele e mi sono accorta che lei si è data molta pena per questa bambina. Adele non è molto intelligente, non ha attitudini speciali, eppure in poco tempo ha fatto molti progressi». «Lei ora mi ha fatto un dono, signore, e la ringrazio. La miglior ricompensa per un'istitutrice è di sentirlo dare i progressi dei propri alunni». Fece il signor Rochester e sorbì in silenzio il suo tè. «Venga accanto al fuoco», disse poi, quando il vassoio fu portato via e la signora Fairfax si appartò in un angolo con il lavoromaglia. In quel momento Adele stava conducendomi in giro per il salotto perché ammirassi i bei libri rilegati e i ninnoli che ornavano le mense e i tavolini, ma a quell'invito ubbidimmo subito, e quando Adele fece per sedersi sulle mie ginocchia, egli le ordinò di giocare con Pilota. «Lei si trova in casa mia da 3 mesi, a quel che ho inteso». «Sì, signore. E proviene da?» «Dalla scuola di Lowood, nella contea di...» «Ah, un istituto di carità. Quanto tempo c'è stata?» 8 anni». 8 anni? Deve essere ben resistente. Credevo che la metà bastassero in un luogo simile per distruggere anche la costituzione più robusta. Adesso capisco perché ha l'aria di venire dall'altro mondo. Mi stavo appunto chiedendo dove mai avesse preso quella faccia. Quando l'ho incontrata sulla strada di Hay ieri notte, ho pensato senza volerlo ai racconti delle fate e stavo quasi per chiederle se non avesse stregato il mio cavallo. A dire il vero, non sono ancora sicuro del contrario. Chi sono i suoi genitori?» «Non ne ho. Ne li ha mai avuti, suppongo. Si ricorda di loro? No. Lo immaginavo. E quando l'ho trovata su quella barriera, aspettava la sua gente? Non capisco, signore. Parlo dei folletti. Con quel chiaro di luna, la sera era proprio adatta. Avevo forse spezzato uno dei suoi cerchi magici perché lei mi gettasse una lastra di ghiaccio su quel dannato selciato? Scossi il capo. I folletti hanno lasciato tutti l'Inghilterra 100 anni fa. Dissi, parlando seriamente, quanto lui. Non se ne trova più traccia nemmeno sulla via di Hay, né nei campi circostanti, e credo che in nessuna stagione il chiaro di luna illuminerà più le loro danze. La signora Fairfax aveva lasciato cadere la maglia e con occhi spalancati sembrava chiedersi di che cosa mai stessimo parlando. «Se non ha genitori, riprese il signor Rochester, avrà almeno dei parenti, uno zio o una zia?» «No, nessuno che conosca. E la sua casa? Non l'ho mai avuta. Dove abitano i suoi fratelli e le sue sorelle?» «Non ne ho. Chi le ha consigliato questo posto?» «Avevo messo un annuncio sul giornale e la signora Fairfax mi ha risposto». «Sì», confermò la buona signora, che ora cominciava a raccapezzarsi, «e ringrazio ogni giorno la provvidenza per la scelta che mi ha fatto fare. La signorina Eyre è stata per me una compagna preziosa e una buona e coscienziosa insegnante per Adele». «Non si disturbi a descrivermene il carattere», rispose il signor Rochester. «Gli elogi non mi influenzano e giudicherò da me. Ha cominciato col farmi cadere da cavallo». «Come?» esclamò la signora Fairfax. «Devo a lei questa slogatura». La vedova lo guardò senza capire. «Signorina Eyre, ha mai vissuto in città?» «No, signore». «Ha frequentato molta gente?» «Soltanto le mie compagne e le maestre di Lowood ed ora gli abitanti di Thornfield». «Ha letto molto?» «Tutti i libri che riuscivo ad avere, ma sono sempre stati pochi e non tra i più scelti». «Ma lei ha condotto la vita di una monaca e senza dubbio è bene addestrata in materia religiosa. Brocklehurst, che mi sembra dirige Lowood, è un pastore, non è vero?» «Sì, signore». «E voi ragazze probabilmente lo adoravate, come le monache in convento venerano il loro confessore?» «Oh no! Lei è molto fredda, ma come? Una novizia che non venera un prete è una cosa scandalosa». «Odiavo il signor Brocklehurst e non ero la sola. È un uomo cattivo, presuntuoso ed intrigante. Ci fece tagliare i capelli e per economia comperava aghi e filo con i quali non potevamo cucire». «Era un'economia male intesa», osservò la signora Fairfax, che aveva nuovamente ripreso il filo del discorso. «E qual era la sua colpa principale?» domandò il signor Rochester. «Ci fece patire la fame, fin tanto che prima della costituzione del comitato rimase solo a dirigere la scuola. Una volta alla settimana ci annoiava con le sue prediche e ogni sera ci imponeva di leggere libri scritti da lui che parlavano di morte improvvisa e del giudizio universale. Quei libri ci incutevano un tale timore che avevamo paura persino di andare a letto». «A che età è entrata Lowood?» «A 10 anni». «Vi è rimasta 8 anni, dunque ne ha 18?» «Annuì». «Come vede, l'aritmetica è utile. Senza il suo aiuto non sarei riuscito a indovinare la sua età. Nel suo caso poi sarebbe stato difficile giudicarla così giovane dal suo viso e dal suo contegno. E che cosa ha imparato a Lowood? Sa suonare pianoforte?» «Un po'. Naturalmente, è la risposta diplomatica. Vado in biblioteca. Voglio dire, la prego. Scusi il mio tono di comando, ma sono avvezzo a dare ordini e a vedermi ubbidito. Non posso cambiare le mie abitudini per una nuova venuta. Prenda un lume dunque e vada in biblioteca. Lasci aperta la porta e suoni qualche cosa». Mi allontanai, ubbidendo ai suoi ordini. «Basta!» mi gridò dopo pochi minuti. «Lei sa proprio suonare un poco, come qualsiasi educanda d'Inghilterra. Forse un po' meglio, ma non bene». Chiusi il pianoforte e ritornai in salotto. Il signor Rochester continuò. «Adele mi ha fatto vedere qualche disegno questa mattina, dicendomi che sono suoi. Dubito che sia veramente tutto di sua mano. Forse l'ha aiutata un maestro». «No, davvero!» esclamai. «Ah, ecco l'amor proprio offeso. Su, vada a prendere la sua cartella, se può garantire che ciò che contiene è tutta opera sua. Ma non mi dia la sua parola se non è vero, perché so riconoscere una raffazzonatura». «Allora non dirò nulla e lei, signore, giudicherà». Andai a prendere in biblioteca la cartella e gliela porsi. «Avvicini la tavola», disse, ed io la spinsi presso il suo divano, mentre anche Adele e la signora Fairfax s'accostavano per vedere i disegni. «Non tanta ressa», disse il signor Rochester. «Prenderete i disegni a misura che li avrò visti, ma non venitemi addosso». Esaminò con calma deliberata ogni schizzo e ogni dipinto e ne mise da parte 3. Gli altri, dopo averli osservati, li scartò, dicendo alla signora Fairfax: «Li porti su un altro tavolo e li guardi con Adele». Lei, volgendosi a me: «Si rimetta a sedere qui e risponda alle mie domande. Ho visto che questi dipinti sono tutti di una stessa mano. La mano è la sua? Sì. E quando ho trovato il tempo di farli? Perché devono avere richiesto non soltanto molto tempo, ma anche fantasia e sensibilità. Li ho fatti durante le 2 ultime vacanze trascorse a Lowood, quando non avevo altro da fare. Dove ha trovato i soggetti che ha dipinto? Nella mia testa. Quella che ha sulle spalle? Sì, signore. Vi è altro dentro dello stesso genere? Spero di sì, e forse anche di meglio. Egli stese i dipinti davanti a sé e si diede a osservarli di nuovo. Mentre il mio padrone è così occupato, voglio, lettrice, descriverti quei quadri, permettendo innanzitutto che non sono affatto sorprendenti. I soggetti erano veramente nati dalla mia fantasia, fin tanto che li avevo visti con gli occhi della mente. Prima di tentare di riprodurli, erano notevoli. Ma poi la mano non aveva saputo assecondare la fantasia e i disegni che ne erano usciti non erano che una pallida immagine di ciò che avevo concepito. I 3 quadretti erano dipinti all'acquarello. Il primo rappresentava una massa di livide nuvole sopra un mare agitato. L'orizzonte era nell'ombra e così pure le onde in primo piano, poiché la terra era invisibile. Un raggio di luce cadeva su di un'alberatura a metà sommersa, in cima alla quale stava posato un nero cormorano dalle ali spruzzate di schiuma. Nel becco aveva un braccialetto d'oro incrostato di gemme, alle quali avevo dato i colori più brillanti della mia tavolozza e tutto il nitore di cui il mio pennello era capace. Sotto l'albero, e l'uccello, fluttuava pallido tra le acque verdi un cadavere del quale era chiaramente visibile un braccio esile spogliato del gioiello. Il secondo quadro aveva in primo piano soltanto la cima di un colle coperto d'erba e di foglie agitate dalla brezza. Dietro si apriva la distesa azzurro cupa di un cielo crepuscolare e in quel cielo appariva fino al busto una forma di donna ritratta nelle tinte più morbide e più scure che avevo saputo combinare. La vaga fronte era sormontata da una stella e gli altri lineamenti si intravedevano come attraverso un velo di vapori. Gli occhi erano cupi e lampeggianti e i capelli le fluttuavano intorno come scure nubi lacerate dai fulmini. Sul collo le brillava il pallido riflesso di un raggio lunare e lo stesso debole luccichio sfiorava lo strascico di nuvole dal quale emergeva quella visione della stella vespertina. Il terzo rappresentava il picco di un ghiacciaio che si innalzava in un cielo polare. Una massa di nordiche luci dardeggiava all'orizzonte di fitti raggi sottili. Su quello sfondo sorgeva, in primo piano, una testa colossale reclinata sul ghiacciaio. 2 mani sottili, giunte sotto la fronte, che sembravano appoggiarvisi, reggevano sopra il resto del viso un velo nero, di modo che erano visibili soltanto la fronte esangue, bianca come l'avorio, e 2 occhi incavati e vuoti di espressione, ma fissi e vitrei come lo sguardo della disperazione. Al di sopra delle tempie, in mezzo a un drappeggio nero, vago e inconsistente come un vapore, brillava un anello di bianche fiamme, in cui erano frammisti lividi scintillii. Quella pallida aureola era come l'emblema di una corona regale e cingeva una forma che forma non aveva. Era felice mentre dipingeva questi quadri? Mi chiese infine il signor Rochester. Ero assorta, signore. Sì, ero felice. Il dipingerli, insomma, è stata per me una delle gioie più vive che abbia conosciuto. Questo mi dice poco. Le sue gioie, come ha confessato, sono state poche. Ma bisogna credere che lei fosse immersa in una specie di sogno d'artista quando ha mescolato e disposto questi strani colori? Dipingeva per molte ore ogni giorno? Non avevo altro da fare, perché era il periodo delle vacanze. Mi mettevo al cavalletto al mattino e ci stavo fino a mezzogiorno e poi da mezzogiorno alla sera. La lunghezza delle giornate mi permetteva di dedicarmi a lungo a questa mia favorita occupazione. E si sentiva soddisfatta del risultato di una fatica tanto appassionata? Tutt'altro. Ero tormentata dal contrasto tra il vivo ideale e le mie capacità. Ogni volta immaginavo qualche cosa che poi ero incapace di esprimere. Infatti, lei ha reso soltanto l'ombra del suo pensiero, nulla di più. Le mancavano la tecnica e l'esperienza per esprimerlo appieno. Tuttavia, questi schizzi sono notevoli per una scolara. Quanto all'idea che li informa, è molto fantastica. Gli occhi della stella vespertina lei deve averli visti in un sogno. Come ha potuto renderli così chiari e tuttavia non brillanti? E il pianeta che la sovrasta velar nel luccichio? E che cosa significa quello sguardo profondo e solenne? Chi le ha insegnato a dipingere il vento? C'è un'aria di burrasca in quel cielo e su quella collina. E dove mai ha visto l'Atmos? Perché questo è l'Atmos. Su, metta via i cartoni. Avevo appena annodato i lacci della cartella quando egli, guardando l'orologio, disse bruscamente: Sono le 9. Perché tiene alzata Delsino a quest'ora? La conduca a letto. Adele gli diede un bacio prima di uscire, ma mi parve che quelle carezze non gli facessero più piacere di quanto non ne avrebbero fatto a Pilota. «Ora auguro la buonanotte a tutti», aggiunse indicando la porta, come a significare che era stanco della nostra compagnia e desiderava rimanere solo. La signora Fairfax rispose, ripose il suo lavoro, io presi la mia cartella e, inchinandoci al signor Rochester, che rispose con un freddo cenno del capo, lasciammo entrambi il salotto. «E lei mi aveva detto che il signor Rochester non è un uomo originale?» disse alla signora Fairfax, quando la raggiunsi in camera sua dopo aver messo a letto Adele. «Le pare che lo sia?» «Direi proprio di sì, con quei suoi modi bruschi e l'umore così mutevole.» «È vero, e mi rendo conto che a un estraneo può fare quell'effetto, ma io sono così avvezza ai suoi modi che non ci faccio più caso. E poi, se ha un carattere un po' strano, bisogna perdonarglielo.» «Perché?» «In parte perché quella è la sua natura e nessuno può cambiare la propria natura, e in parte perché molti pensieri lo preoccupano, e di qui i suoi sbalzi d'umore.» «Quali pensieri?» «Quelli che gli ha procurato la famiglia, per esempio.» «Ma se non ne ha di famiglia?» «L'ha avuta, o perlomeno qualche parente. Ha perso il fratello maggiore solo pochi anni fa.» «Il fratello maggiore?» «Sì, l'attuale signor Rochester è il proprietario di questa tenuta soltanto da 9 anni.» 9 anni sono un periodo abbastanza lungo. Amava tanto suo fratello da piangere ancora la sua morte?» «Ma no, non credo. Non regnava l'accordo tra di loro. Il signor Roland Rochester non era giusto con il signor Edward e pare che aizzasse anche il padre contro di lui. Il vecchio otteneva molto al denaro e non voleva dividere il patrimonio di famiglia. Non voleva sminuire il valore della proprietà facendone due parti e tuttavia desiderava che il signor Edward fosse abbastanza ricco per condurre una vita degna del suo nome. Così, non appena il secondogenito fu maggiorenne, intraprese passi non molto onesti, che ebbero disastrose conseguenze. Nell'intento di arricchire il signor Edward, il vecchio signor Rochester e il signor Roland lo spinsero, invece, in una situazione assai penosa. Di che natura fosse questa situazione non l'ho mai saputo di preciso, ma il fatto è che il signor Rochester non poté sopportarla. E poiché non è di natura tollerante, ruppe ogni rapporto con la famiglia, e da allora ha sempre condotto una vita disordinata e vagabonda. Non credo abbia mai abitato qui 15 giorni di seguito, da quando il fratello, morendo senza lasciare testamento, l'ha reso padrone della proprietà. Del resto non mi meraviglia che eviti questo luogo.» «Perché?» «Ma forse gli sembra triste.» La risposta era evasiva, ne avrei desiderata una più chiara, ma la signora Fairfax non poteva o forse non voleva darmi una più esplicita spiegazione sull'origine e sulla natura delle pene del signor Rochester. Affermava che erano un mistero anche per lei e che le sue erano più che altro congetture, ma mi parve evidente che desiderasse lasciar cadere il discorso e l'accontentai. Capitolo 14. Nei giorni che seguirono vidi poco il signor Rochester. Al mattino ero occupato dagli affari e nel pomeriggio venivano spesso visite da Millcote e dai dintorni e spesso quei signori si trattenevano a pranzo. Quando fu guarito dalla slogatura al piede, cominciò ad uscire a cavallo e probabilmente restituiva le visite perché in genere ritornava sempre a tarda ora. In quel periodo anche Adele venne raramente chiamata in sua presenza ed io non lo vedevo che quando mi capitava di incontrarlo nell'ingresso, sulle scale o nella galleria. Talvolta mi passava accanto freddo e altero, dando a divedere d'avermi notata soltanto con un cenno distratto o una gelida occhiata. Tal'altra invece mi faceva un inchino e mi sorrideva con affabilità. I suoi modi ineguali non mi offendevano perché capivo di non aver nulla a che fare con i suoi malumori. Quegli alti e bassi provenivano da cause a me del tutto estranee. Un giorno, che aveva gente a pranzo, mandò a chiedere la mia cartella, indubbiamente per mostrarne il contenuto agli ospiti. Poi quei signori se ne andarono presto, chiamati a Millcote da una riunione, come mi disse la signora Fairfax. Ma poiché la sera era umida e fredda, il signor Rochester non si unì a loro. Non appena gli ospiti furono usciti, egli suonò il campanello e poco dopo mi vennero a dire di scendere con Adele. Pettinai la bambina, le cambiai il vestito e dopo essermi assicurata d'essere in ordine anch'io, sebbene difficilmente la mia semplice veste e la liscia acconciatura avessero bisogno di un ritocco, scendemmo a terreno. Adele sperava che finalmente fosse giunto il petit coffre che non so per quale disguido fino allora non era stato recapitato. E fu soddisfatta perché entrando in sala da pranzo scorse sul tavolo una scatola che subito istintivamente riconobbe. Ma boîte!» esclamò precipitandosi. «Sì, eccola finalmente la tua boîte. Portatela in un angolo, piccola parigina, e divertiti ad aprirla», disse la voce profonda e alquanto ironica del signor Rochester, sprofondato in una enorme poltrona accanto al fuoco. E bada di non annoiarmi con i particolari del tuo processo anatomico, né con la descrizione dello stato dei visceri. Procedi in silenzio all'operazione. Tiens-toi tranquille, enfant, comprends-tu? Adèle non aveva bisogno di quella raccomandazione. Si era già accoccolata su un divano con il suo tesoro e stava sciogliendo lo spago che legava la scatola. Rimosso il coperchio, ne strasse alcuni involti di carta d'argento, esclamando «Oh ciel, que c'est beau!» e rimase assorta in estatica contemplazione. «La signorina era qui?» domandò il padrone, alzandosi un poco dalla poltrona per dare un'occhiata in giro e scorgendomi ancora presso la porta. «Ah bene, venga avanti, si sieda qui», disse avvicinando una sedia al caminetto. «Non mi diverte il chiacchierio dei bambini», continuò, «poiché da quel vecchio scapolo che sono non ho piacevoli ricordi connessi ai loro primi balbettii, non sarei capace di passare tutta una serata tête-à-tête con un marmocchio». «Non si scosti con la sedia, signorina Eyre, la lasci esattamente dove l'ho messa. Voglio dire, la prego». «Al diavolo le buone maniere, le dimentico sempre. Ne ho una particolare simpatia per le vecchie signore dal cervello limitato. Si direbbe che sto parlando di quella che ho in casa mia, ma non posso trattarlo male. È una Fairfax, o perlomeno la vedova di un Fairfax, e si dice che il sangue sia più denso dell'acqua». Suonò e mandò a chiamare la signora Fairfax, che subito arrivò col suo lavoro a maglia. «Buonasera, signora. L'ho fatta venire per uno scopo caritatevole. Ho proibito ad Adèle di parlarmi dei regali che ha ricevuto, ma vedo che sta scoppiando. Abbia la bontà di servirle da auditorio e da interlocutrice. Sarà una delle azioni più buone che lei avrà mai compiuto». Infatti Adèle, non appena ebbe visto la signora Fairfax, la chiamò accanto a sé e in un baleno le mise in grembo gli oggetti d'avorio, di porcellana, di cera che la boîte conteneva, dando sfogo al tempo stesso alla sua gioia con le poche e monche frasi che la scarsa conoscenza dell'inglese le concedeva. «Ora che ho rappresentato la parte del bravo padrone di casa», continuò il signor Rochester, «e ho provvisto i miei ospiti di che divertirsi, sono libero di intrattenermi un poco a mio piacere». «Signorina Eyre, venga un po' più vicino con la sua seggiola, così è troppo lontana e non posso vederla senza scomodarmi, cosa che non voglio fare». «Feci ciò che mi veniva chiesto, sebbene avrei preferito rimanere più nell'ombra, ma il signor Rochester aveva un modo così imperioso di dare ordini che veniva spontaneo di ubbidirgli subito. Ci trovavamo, come ho detto, nella sala da pranzo e il lampadario, che era stato acceso per la cena, illuminava sfarzosamente la stanza. Il grande fuoco che ardeva nel camino diffondeva un rosso sfavillio. Gli ampi cortinaggi color porpora chiudevano le finestre scendendo in ricche pieghe davanti all'arcata del salotto. Tutto era tranquillo e non si udiva altro che il sommesso cicaleccio di Adèle, alla quale non osava parlare ad alta voce, e il picchiettio della pioggia contro i vetri. Il signor Rochester, seduto nella poltrona di damasco, mi parve diverso da come lo conoscevo. Non aveva più quell'espressione cupa e corrucciata. Un sorriso errava sulle sue labbra e gli occhi gli scintillavano. Se per effetto del vino non saprei, ma lo credo probabile. Pare tuttavia che, dopo pranzo, egli fosse facilmente di quell'umore, più espansivo che allegro, più indulgente anche verso se stesso dell'uomo freddo e scostante che era al mattino. Ma vi era sempre qualche cosa di torvo in quella sua testa massiccia, appoggiata allo schienale imbottito della poltrona illuminata dal fuoco, che ne faceva risaltare i lineamenti duri e i grandi occhi scuri, poiché aveva occhi grandi, scuri e bellissimi, il cui sguardo profondo esprimeva talvolta, se non proprio la dolcezza, un sentimento a questa molto affine. Lo guardavo mentre fissava immobile la fiamma, quando, volgendosi all'improvviso, gli colse i miei occhi fermi sul suo volto. «Mi sta esaminando, signorina Eyre?» disse. «Mi trova bello?» Se avessi avuto il tempo di riflettere avrei dato a quella domanda una risposta convenzionale, vaga e cortese, ma le parole mi uscirono di bocca quasi a mia insaputa. «No, signore». «Ah, perbacco, questa poi! Ma sa che lei è uno strano tipo?» esclamò egli. «Ha tutta l'aria di una monachella, semplice, tranquilla, seria seria, con le mani in grembo e gli occhi bassi, eccetto quando me li figge in viso come ora, per esempio, ma quando le si rivolge una domanda o si fa un'osservazione alla quale è costretta a rispondere alla parola pronta, e la sua risposta, se non è impertinente, è perlomeno brusca. Che cosa significa quello che mi ha detto?» «Scusi, signore, sono stata troppo franca. Avrei dovuto dirle che non era facile improvvisare una risposta, che i gusti variano e che la bellezza ha poca importanza o qualcosa di simile». «Non avrebbe dovuto rispondere a questo modo. Come? La bellezza ha poca importanza? Così, col pretesto di attenuare l'offesa, di tenermi tranquillo, lei mi configge più in fondo la lama. Vada avanti, la prego. Quali difetti trova in me? Mi pare di avere membra e fattezze come qualsiasi altro uomo». «Signor Rochester, La prego, dimentichi la mia prima risposta. Non intendevo offenderla, è stata una semplice storditaggine. Per l'appunto, e lei ne dovrà rispondere. Mi osservi bene, è la mia fronte che non le piace? Rialzò la bruna ciocca che gli scendeva sugli occhi, mettendo a nudo una fronte alta e intelligente, ma del tutto priva del segno suave della benevolenza. Ebbene, signora, sono forse un idiota? No, davvero, signore, ma lei forse mi giudicherà sfacciata quando le chiederò se è un filantropo. Eccoci da capo. Un'altra scalfittura proprio mentre pretende di farmi una carezza. E tutto perché ho detto che non amo la compagnia dei bambini e delle vecchie, si è detto a bassa voce. No, mia giovane donna, non sono generalmente un filantropo, ma ho una coscienza. E additò le prominenze che si vuole rivelino tale facoltà e che fortunatamente per lui erano piuttosto marcate e conferivano nobiltà alla parte superiore del suo viso. Inoltre una volta vi era una specie di rude tenerezza nel mio cuore. Quando avevo la sua età ero piuttosto sensibile, parteggiavo per i deboli, per i poveri e gli infelici, ma poi la sorte mi ha colpito duramente, mi ha così malmenato che ora posso vantarmi d'essere duro come una palla di caucciù, vulnerabile forse ancora in qualche parte, ma con un solo punto sensibile. E ora mi dica, c'è ancora speranza per me? Quale speranza, signore? Ma che il caucciù ritorni a essere carne? Deve aver bevuto troppo, pensai, non sapendo che rispondere alla sua strana domanda. Come potevo sapere se un giorno si sarebbe trasformato? Sembra molto perplessa, signorina Eyre, e sebbene lei non sia bella, come non sono bello io, quell'aria impacciata le sta bene. Inoltre le conviene perché distoglie dalla mia fisionomia i suoi occhi scrutatori e li tiene fissi sui fiori del tappeto. Continui pure così, signorina, perché questa sera sono comunicativo. Nel dir questo si alzò, appoggiandosi col braccio al caminetto, e quell'atteggiamento mi permise di vedere la sua figura non meno distintamente del suo volto e di notare che lo sviluppo del torace non era proporzionato alla lunghezza delle membra. Sono certa che la gente lo giudicava brutto, ma aveva nel portamento tanta fierezza naturale, maniere così agevoli e sicure, pareva curarsi tanto poco del suo aspetto esteriore ed essere così alteramente convinto di poter supplire a una mancanza di pure attrattive fisiche con le sue altre qualità intrinseche o acquisite, che guardandolo non si poteva fare a meno di condividere la sua indifferenza e quasi quasi anche la sua convinzione. «Sono in vena di parlare questa sera», ripeté, «e per questo l'ho fatta chiamare. Il fuoco e i candelieri non mi bastavano, e neppure pilota, perché non parla. Adele è già un gradino più su, ma non può soddisfarmi, e lo stesso devo dire della signora Fairfax. Lei invece sono persuaso che può fare al caso mio, se vuole. Mi ha incuriosito la prima sera che l'ho invitata qui». Poi l'avevo quasi dimenticata, altri pensieri l'avevano scacciata dalla mia mente, ma questa sera sono deciso a restare di buon umore. Voglio allontanare tutto ciò che mi importuna e richiamare ciò che mi diverte. Mi piacerebbe ora farla uscire dal suo guscio, saperne di più sul suo conto, dunque parli. Invece di parlare sorrisi, e il mio sorriso non era né amabile né indulgente. «Parli!» insistette egli. «Di che cosa, signore?» Di quello che vuole, lascio completamente a lei la scelta sia dell'argomento che del modo di esporlo. Mi sedetti, come voleva, ma non apersi bocca. Se si aspetta che parli per il piacere di parlare e di mettermi in mostra, si accorgerà di aver sbagliato persona, dissi tra me. È muta, signorina Eyre? Continuai a tacere. Egli chinò leggermente la testa verso di me, gettandomi negli occhi un rapido sguardo scrutatore. Caparbia, disse, è infastidita. È naturale, ho fatto la mia domanda in forma assurda e quasi insolente. Signorina Eyre, le chiedo scusa. Il fatto è, sia detto una volta per tutte, che non intendo trattarla da inferiore. O per meglio dire, si corresse, che pretendo soltanto la superiorità che debbono conferire 20 anni di più quanto all'età e 1 secolo di più quanto all'esperienza. Questo è legittimo e j'y tiens, come direbbe Adele. Ed è in virtù di tale superiorità e di essa sola che le chiedo la cortesia di parlarmi un poco, di distrarre la mia mente tormentata da un solo pensiero, attorno al quale si rode come un chiodo coperto di ruggine. Si era degnato di darmi una spiegazione, quasi di chiedermi scusa, e volli mostrargli che non ero insensibile a quell'atto cortese. «Sono più che disposta a cercare di svagare i suoi pensieri, signore, se ci riesco, ma quanto all'argomento come faccio a sapere quale può interessarla?» Mi interroghi ed io le risponderò come posso meglio. Allora, in primo luogo, mi riconosce il diritto d'essere un po' imperioso, brusco, forse troppo esigente qualche volta? E ciò per le ragioni esposte prima, cioè perché sono abbastanza vecchio per poter essere padre? Poi perché ho l'esperienza che insegnano la lotta e il diretto commercio con molti individui di diversi popoli? infine perché ho corso mezzo mondo, mentre lei ha sempre vissuto tranquillamente con le stesse persone nella stessa casa? Come vuole, signore. Questa non è una risposta, o perlomeno è una risposta molto irritante perché evasiva. Risponda chiaramente. Ebbene, signore, non ritengo che lei abbia il diritto di darmi ordini soltanto perché è più anziano di me o perché conosce meglio il mondo. La sua superiorità dipende dall'uso che lei ha fatto sia del suo tempo che della sua esperienza. Ecco quel che si dice una risposta pronta. Ma non posso accettarla perché mi è sfavorevole, visto che ho fatto un uso sciocco, per non dire cattivo, di quei due vantaggi. Lasciamo pure da parte la superiorità e mi dica se è disposta ad accettare i miei ordini di tanto in tanto, senza sentirsi urtata o offesa dal tono di comando. Risponda, la prego. Sorrisi e pensai che il signor Rochester era un uomo ben strano. Sembrava dimenticare che mi pagava 30 sterline all'anno appunto perché fossi ai suoi ordini. Il sorriso è già qualche cosa, disse, cogliendo subito quella fuggevole espressione. Ma non mi basta, parli. Pensavo, signore, che pochi padroni si curano di sapere se la gente che pagano è contenta o no di ricevere i loro ordini. La gente che pagano? Ma forse che lei è una mia dipendente? Ah, sì, avevo dimenticato lo stipendio. Ebbene, per questa ragione mercenaria, almeno mi consente di fare un po' il padrone? No, signore, per questa ragione no. Ma perché l'avevo dimenticata, invece, e perché si preoccupa di sapere se un dipendente è contento della sua dipendenza. Per questo sì, acconsento di cuore. E accetta anche di dispensarmi da forme e frasi convenzionali, senza scambiare tali omissioni per insolenza? Sono certa, signore, che non confonderò mai la schiettezza con l'insolenza. L'una mi piace, l'altra, nessuna creatura nata libera può tollerarla, nemmeno per denaro. Storie, la maggior parte delle creature libere accetta qualunque cosa per denaro, quindi si limiti a parlare di se stessa senza avventar giudizi sulla generalità degli uomini che lei non conosce né punto né poco. In ogni modo apprezzo la sua risposta, anche se inesatta, sia per la forma che per la sostanza. È una risposta franca e sincera, come capita raramente di sentirne, poiché di solito in cambio della propria schiettezza non si ha che affettazione, freddezza, stupidità e incomprensione. Su 100 istitutrici, forse neppure una mi avrebbe risposto come ha fatto lei. Ma non creda che io voglia adularla, se lei è diversa dalla maggioranza, il merito non è suo, bensì della natura. E poi, in fin dei conti, il mio giudizio può essere affrettato. Per quel che ne so, oggi, lei può anche non essere migliore delle altre, può avere difetti intollerabili per controbilanciare le buone qualità. Forse anche lei ne ha. Gli risposi tra me, e in quel momento il mio sguardo incontrò il suo e gli dovette leggervi il mio pensiero perché rispose come se lo avessi espresso con le parole. «Sì, sì, ha ragione», disse. «Io ho molti difetti, lo so, e non cerco di attenuarli, gliela assicuro. Dio sa se posso essere severo con gli altri. I miei atti e la vita che ho condotto in passato, lo spirito con il quale l'ho affrontata dovrebbero indurmi a criticare e a disprezzare me stesso, non il mio prossimo». Mi avviai, o piuttosto, poiché come tutti i peccatori cerco di far ricadere il biasimo sulla sfortuna, sulle circostanze avverse, fui spinto sulla cattiva strada quando avevo 20 anni e da allora non ho più ritrovato quella retta. Ma avrei potuto essere diverso, avrei potuto essere buono come lei, più esperto, ma forse altrettanto puro. Invidio la pace del suo spirito, il candore della sua coscienza, il suo passato senza macchia. Bambina, un passato senza macchia, una vita incontaminata, devono essere un tesoro prezioso, una sorgente inesauribile di serenità ristoratrice, non è vero? Com'erano, signore, i suoi ricordi a 18 anni? Come debbono essere a quell'età? Limpidi e belli. Nessun'acqua impura li aveva trasformati in una putrida gora. Ero uguale a lei a 18 anni, proprio uguale a lei. La natura mi aveva fatto per essere un brav'uomo, signorina Eyre, uno dei migliori, ma lei vede che non sono tale. Lei forse vuol dire che non lo vede, o perlomeno così mi pare di leggere nei suoi occhi. A proposito, badi all'espressione del suo sguardo, perché io sono pronto a interpretarne il linguaggio. Creda alle mie parole, io non sono cattivo, e lei non deve ritenermi tale o attribuirmi alcuna eminenza nella malvagità. Grazie alle circostanze, credo, più che alla mia naturale inclinazione, io non sono che un volgare peccatore, rotto a tutte le meschine dissipazioni alle quali s'abbandonano i ricchi per rallegrare la loro vita. La stupisce che io confessi a lei tutte queste cose? Sappia che nel corso della sua vita lei si troverà spesso eletta involontaria confidente di molti segreti. Le persone con le quali vivrà scopriranno istintivamente, come me, che lei non è fatta per parlare di sé, ma per ascoltare le confidenze altrui. sentiranno anche che non ascolta con malevolenza o con disprezzo, ma con una specie di simpatia innata che consola e incoraggia, anche se si manifesta con troppa discrezione. Come lo sa? Come ha indovinato tutto ciò, signore? Lo so, e per questo continuo così liberamente, come se affidassi a un diario i miei pensieri. Lei dirà che avrei dovuto dominare le circostanze. Lo avrei dovuto, sì. Ma vede che non ho saputo farlo. Quando la sorte mi fece torto, non ebbi la saggezza di rimanere indifferente. Mi abbandonai alla disperazione e quindi mi degradai. Ora, quando un vizioso imbecille eccita il mio disgusto con le sue ignobili ribalderie, non posso vantarmi d'essere migliore di lui, e sono costretto a riconoscere che mi trovo allo stesso suo livello. Come vorrei essere rimasto forte. Dio sa quanto l'ho desiderato. Tema il rimorso, signorina Eyre. Quando sarà tentata di agir male, il rimorso è il veleno della vita. Si dice che il pentimento ne sia rimedio, signore. No, non lo è. Il solo rimedio è una condotta migliore, ed io potrei migliorarmi. Ho ancora in me la forza sufficiente se... Ma a che serve pensarvi? Ostacolato, oppresso, maledetto come sono. Inoltre, poiché la felicità mi è negata irrevocabilmente, io ho il diritto di cercare il piacere nella vita e lo troverò a qualunque costo. Allora, signore, lei cadrà ancora più in basso. Può darsi, ma forse anche no, se riesco a trovare un piacere dolce e fresco, e ne troverò uno così fresco e dolce come il miele selvatico che le api raccolgono sui prati. Saprà d'amaro, signore. Che ne sa lei? Lei non lo ha mai gustato, e perché adesso codesta espressione così seria e solenne? Lei ignora tutte queste cose non meno di una testa di cameo. E prese una miniatura dal camino. Non ha alcun diritto di farmi la predica, mia giovane neofita, perché non ha ancora varcato la soglia della vita e non ne conosce ancora alcun mistero. Non faccio che ricordare le sue stesse parole, signore. Lei ha detto che la colpa provoca il rimorso e che il rimorso è il veleno della vita. Chi parla di colpa ora? Non credo proprio che l'idea di balenatami alla mente sia una colpa. Mi sembra un'ispirazione piuttosto che una tentazione, e quanto benefica e gentile. Eccola che torna. Non è lo spirito del male, l'assicuro, o se lo è, ha rivestito le sembianze di un angelo. Come non far entrare un ospite tanto amabile se mi chiede d'essere ammesso nel mio cuore? Diffidi di lui, signore, non è un angelo vero. Ancora una volta, come fa a saperlo? In forza di quale istinto lei pretende di distinguere un angelo caduto nell'abisso da un messaggero della gloria celeste, la guida dal seduttore? Ho giudicato dal suo aspetto, signore, che era turbato quando disse che quell'ispirazione ritornava. Sono convinta che se seguirà il suo desiderio si renderà ancora più infelice. Oh no, quell'angelo mi porta il più grazioso messaggio che si possa desiderare. D'altra parte, lei non è la guardiana della mia coscienza, quindi non si dia pensiero. Entra, entra, leggiadro messaggero. Disse queste parole come se parlasse a un essere visibile a lui solo. Poi incrociò sul petto le braccia che aveva proteso come se volesse stringere a sé quella visione. Ora, riprese volgendosi di nuovo verso di me, ho ricevuto il pellegrino. Credo che sia una divinità travestita perché già mi ha fatto del bene. Il mio cuore era una specie di focolaio di corruzione. D'ora in poi sarà un reliquiario. A dire il vero, signore, io non la capisco. Non posso sostenere questa conversazione perché mi riesce astrusa. So una cosa sola, che lei non è buono come vorrebbe essere e che si duole della sua imperfezione. E una cosa sola ho capito, che le macchie del suo passato sono per lei un veleno e una condanna, ma mi sembra che con la volontà potrebbe in breve ridiventare ai suoi stessi occhi un uomo degno di stima, e che se fin da questo momento cominciasse a modificare seriamente i suoi pensieri e le sue azioni, in pochi anni avrebbe un passato nuovo e puro che potrebbe guardare con gioia. Ben pensato e ben detto, signorina Eyre. In questo momento lastrico l'inferno di buone intenzioni. Come, signore? Sì, prendo buone risoluzioni che credo salde e durevoli come una roccia. D'ora in poi, naturalmente, i miei amici e le mie mire saranno diversi da quelli del passato. E migliori? Sì, migliori, come il metallo puro lo è dalle scorie. Pare che lei metta in dubbio quel che le dico, ma io non dubito. So qual è il mio scopo e quali sono i motivi, e in questo momento dichiaro, in virtù di una legge inalterabile come quella dei Medi e dei Persiani, che l'uno e gli altri sono retti. Non possono esserlo, signore, se esigono un nuovo statuto per diventare legali. E io le dico che lo sono, anche ad onta di ciò, signorina Eyre. Le condizioni e le circostanze eccezionali richiedono leggi eccezionali. È una massima pericolosa, signore, perché si presta all'abuso. Ha ragione, saggia e sentenziosa creatura, ma io giuro sui miei dei domestici di non abusarne. Lei è un uomo? È fallibile? Sì, come lei, e con questo? Gli uomini fallibili non dovrebbero arrogarsi un potere che può essere affidato con sicurezza solamente agli esseri perfetti e divini. Quale potere? Quello di dire di ogni linea di condotta, per strana e illecita che sia, è giusto così. È giusto così, sono le parole esatte e le ha pronunciate lei. Dio voglia che sia giusto, dissi alzandomi, perché mi sembrava inutile continuare un discorso tanto oscuro per me. Inoltre mi ero resa conto che, almeno per il momento, non potevo penetrare il carattere del mio interlocutore e provavo quel senso di incertezza e di disagio che genera la convinzione della propria ignoranza. Dove va ora? A mettere a letto Adele? La sua ora è già passata. Lei ha paura di me? Perché parlo come una sfinge? Sì, il suo linguaggio è enigmatico, signore, ma benché sia meravigliata non ho certo paura. Lei ha paura, il suo amor proprio teme qualche imbroglio. In questo senso sì, nutro qualche apprensione, non desidero dire sciocchezze. Se anche le dicesse lo farebbe con tanta calma e gravità che non me ne accorgerei. Non ride mai, signorina Eyre? Non si dia pena di rispondermi, vedo che ride raramente, ma può ridere con molta gaiezza. Creda me, lei non è naturalmente austera, come io non sono naturalmente vizioso. La disciplina di Lowood la domina ancora e lei controlla l'espressione del suo viso. Soffoca la sua voce, costringe le sue membra e in presenza di un uomo e di un fratello, o padre, o padrone, o quello che vuole, teme che il suo sorriso sia troppo allegro, la sua parola troppo franca, i suoi movimenti troppo pronti. Tuttavia spero che col tempo imparerà ad essere spontanea con me, perché io non mi sento d'essere convenzionale con lei. Allora la sua espressione e i suoi gesti avranno una vivacità e una mutevolezza che oggi non osano palesare. Intravedo a momenti lo sguardo di un uccello curioso attraverso le fitte sbarre della gabbia. Mi rendo conto che quell'irrequieto, vivace e risoluto prigioniero volerebbe sino alle nubi il giorno che fosse libero. Vuole ancora andarsene? Sono le 9 suonate, signore. Oh, non importa, aspetti un istante. Adele non è ancora pronta per andare a letto. Occupo un posto qui in questa poltrona con le spalle al fuoco, assai favorevole all'osservazione, e mentre le parlavo davo ogni tanto un'occhiata ad Adele. Ho le mie ragioni per crederla un curioso soggetto di studio, ragioni che un giorno forse, no, certamente, le dirò. Così ho visto che 10 minuti fa ha tolto dalla scatola un vestitino di seta rosa e mentre lo spiegava si illuminava tutta di piacere. Ha la civetteria nel sangue, nel cervello e persino nelle ossa. «Il faut que je le sais!» ha esclamato. «E à l'instant même!» Ed è corsa via. Ora è certamente con Sophie che l'aiuterà a vestirsi e tra poco la vedremo tornare. So che cosa mi apparirà davanti. Una miniatura di Céline Varenne, come si presentava alla ribalta, alle var del... Non ci pensiamo più. Eppure i miei sentimenti più teneri ora riceveranno un colpo. Lo sento. Resti dunque per vedere se ho ragione. Dopo poco si udì il passo leggero e rapido di Adele attraversare la sala d'ingresso ed ella entrò, trasformata, come il suo tutore aveva predetto. Una veste di raso rosa molto corta e con la gonna gonfia e vaporosa aveva sostituito il vestitino scuro che indossava prima. Sui capelli aveva una ghirlanda di boccioli di rose e i piedini erano chiusi in calze di seta e sandali di raso bianco. «Est-ce que ma robe va bien?» esclamò correndo verso di noi. «Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais danser!» E rialzando leggermente i lembi della veste con la punta delle dita, cominciò a volteggiare attraverso la stanza, finché, giunta vicino al signor Rochester, fece una piroetta sulla punta dei piedi e si lasciò cadere su di un ginocchio davanti a lui. «Monsieur, que je vous remercie mille fois de votre bonté!» esclamò, poi alzandosi aggiunse. «C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur?» «Precisamente», rispose egli. «E comme cela...» Tua madre allettava le mie sterline e le faceva uscire dalle mie tasche inglesi. Sono stato giovane anch'io, signorina Eyre, giovane come l'erba in primavera, e il mio viso allora non era meno fresco del suo. Ma ora la mia primavera se n'è andata, lasciandomi tra le mani questo fiorellino francese dal quale a volte vorrei essere liberato, non apprezzando più il tronco d'onde germogliato. Avendo scoperto che soltanto la polvere d'oro poteva servirgli d'ingrasso, non ho più simpatia per il bocciolo, specie quando appare così artificiale come ora. La tengo qui, la faccio allevare, uniformandomi al principio cattolico romano che insegna ad espiare le proprie colpe, grandi o piccole che siano, con una buona azione. Ma tutto questo glielo spiegherò un'altra volta. Buonanotte.